33, madre e figlia. Ovunque l'individuo sia represso, ovunque si verifichino atti contrari alla natura dell'individuo, là è in atto il crimine più grande. È per questo che i tre vincoli familiari del nostro paese, fra principe e suddito, fra padre e figlio, fra marito e moglie, devono scomparire e costituire insieme alla religione, il capitalismo e l'autocrazia i quattro demoni maligni dell'impero. Mao Zedong, Società di Studi del Popolo Nuovo, 1918. Dalla finestra aperta, l'una di primavera sbirciò nella strada polverosa. Ottenuta la destituzione dei ministri filo-giapponesi, i dimostranti avevano trionfato. Dopo quasi una settimana di prigione, Giada Lucente sarebbe tornata a casa. Per un attimo, desiderò che il grande veggente fosse a suo fianco, benché l'uccello Mian non potesse dirle niente che non sapesse già. Le profezie non cambiano il destino, solo lo confermano. Nessun altro segno poteva essere più rivelatore del rifiuto di Giada Lucente di lasciare la scuola il secondo giorno dopo il suo arresto, in seguito all'intervento di Talento Nobile il 20 d'agosto. Aveva risposto no, con la stessa facilità con cui avrebbe rifiutato un'altra tazza di tè. Ora, ripensando al passato, parve a luna di primavera che molti fossero stati i segni rivelatori. Era nata lontana dai cortili, in un'epoca in cui le donne salvavano l'onore cercando la morte nei pozzi e la biblioteca degli Hanlin era stata bruciata. Era stata portata via prima dalla sua casa a Pechino, poi dall'altare degli antenati a Suzhou. Come poteva aspettarsi che sua figlia si curasse del suo Laokia, quando non aveva mai assaporato l'ombra del vecchio cipresso o udito il richiamo dei fedeli compagni? Il telefono squillò. Promessa Costante si precipitò all'apparecchio. «Wei! Wei! Wei!» urlò nel ricevitore. Ci fu una pausa. «Sto bene, nipote. E tu?» urlò ancora. Un'altra pausa. «Sì, Sao Sao è qui!» L'una di primavera si alzò, sorridendogli. Nelle settimane precedenti l'inizio delle dimostrazioni, Giada Lucente aveva trascurato persino lui, tanto poco era a casa. L'altra sera non aveva nemmeno chiesto di lei perché lo ascoltasse mentre diceva le sue preghiere. L'una di primavera prese il ricevitore e fece cenno al bambino di salire di sopra a dormire. Ah, 20 d'agosto, ci sono novità? Sì, avevamo ragione, tua figlia sarà a casa oggi. Lei sospirò, sollevata. Ah, sta bene. Ne sono certo, non preoccuparti. È una brava ragazza, una volta a casa metterà la testa a posto, vedrai. La sua voce era tenera come quella di un figlio premuroso. Improvvisamente le sembrò di non poter trattenere le lacrime, immaginandosi sua figlia coi capelli corti, ricordando come, nonostante si fossero tagliati la coda, uomini adulti avessero poi pianto chiedendo perdono agli anziani. Non aveva visto Giada Lucente né il giorno in cui se n'era andata di casa, né 2 giorni dopo, quando lei e Talento Coraggioso l'avevano aspettata invano davanti alla scuola. Ma aveva recuperato i capelli recisi e li aveva riposti in una scatola. Le era sembrata la cosa giusta da fare. Zia, stai bene? Poiché non rispose, lui disse: Zia, vengo subito! E riattaccò. Pochi minuti dopo era alla porta. Concentrandosi su ciascuna parola, ciascun gesto, lei lo accompagnò in salotto. Come vedi, sto bene, sorrise in un gesto di gratitudine. Lui la scrutò, chiacchierando amabilmente di questioni insignificanti, finché lei offrì da bere, poi disse: Sarà meglio che me ne vada prima che torni la sorella. Ti prego, resta ancora un poco, 20 d'agosto. Si interruppe raccogliendo le idee che si era proposta di esprimere a pranzo, prima di venire a sapere che sua figlia stava tornando a casa. 20 d'agosto, hai cambiato i tuoi piani in merito a questa casa. È da oltre un anno che ci siamo trasferiti qui. E certo avrai avuto il tempo di valutare se l'investimento sarà proficuo. Recentemente mi hanno offerto un posto di insegnante a Suzhou e io potrei tornare senza difficoltà a vivere nei cortili. Giada Lucente sarà sempre ben accolta alla missione. Non temere di crearci problemi. Lui la guardò come se non la vedesse. Non è cambiato niente. I miei piani sono immutati. Ma da qualche tempo ho il sospetto che qui non si costruirà mai né una stazione ferroviaria né una fabbrica. Dovresti vendere questa casa e ricominciare da capo. 20 d'agosto scosse lentamente la testa, come se non volesse nemmeno sentire quelle parole. e tantomeno prenderli in considerazione. Ti prego, insistette lei con dolcezza, dammi retta. Zia, un buon uomo d'affari vede sempre opportunità che sfuggono agli altri. Ne ricaverò comunque un buon profitto. Non è un affare che possa essere concluso, né in un anno, né in due, né in tre. Non ho altri piani, posso permettermi di aspettare. Sei certo che sia saggio agire così? Oh sì. La sua voce era bassa, come se parlasse fra sé. È quel che voglio fare, aspettare. Aspettare per tutto il tempo che sarà necessario. Si accese una sigaretta e dopo poche boccate la spense. Zia, mi devi aiutare. Posso aiutarti andandomene, obbligandoti a vendere. 20 d'agosto. Non vedo come la situazione possa evolversi. Io temo che tu abbia sognato. E che male c'è a sognare, zia? Quando mi affacciai al cancello della casa dei Chang, un orfano vestito di stracci, con una lettera di presentazione della mia defunta madre, sognavo che un giorno sarei diventato ricco. Sono riuscito a realizzare quel sogno. Nessuno ci avrebbe creduto allora. Nessuno potrebbe negarlo adesso. È proprio così, ma questa volta è la stessa cosa. Ci fu una lunga pausa, e quando lei parlò di nuovo fu come se parlasse anche per se stessa. Realizzare un sogno nella vita è già un grande dono degli dèi. Io so che vi sono cose che nemmeno gli dèi possono cambiare. Non possono cambiare il cuore degli uomini, finì lui per lei. In lontananza, l'una di primavera udì lo scoppiettare dei petardi, come il ricordo di una risata quando ormai la felicità è scomparsa. 2 ore dopo che i dimostranti ebbero lasciato la scuola, Giada Lucente si trovava all'incrocio e osservava Spirito Risoluto e Hu marciare verso la casa da tè del flauto smarrito, dove i capi dello sciopero dovevano discutere un programma di scolarizzazione dei lavoratori. Ogni 2 o 3 passi il contadino si voltava a salutarla, sorridendo come per assicurarla che tutto sarebbe andato bene. Lei voleva andare con loro, ma Spirito Risoluto aveva insistito perché non lo facesse. Il cuore di una madre è fragile. Inoltre sono responsabile per la tua assenza da casa di questa settimana. Non voglio che la tua famiglia mi consideri indegno della sua fiducia. Ti prego. Lei aveva consentito, ora perplessa osservava i suoi amici andarsene senza di lei. Che differenza poteva fare un pomeriggio? Sua madre sarebbe stata ugualmente in collera. Lentamente si voltò e percorse la Rue Flaubert, e ogni passo le costava uno sforzo immane. Quando aprì la porta principale, l'una di primavera era seduta alla finestra e la guardava intensamente, ma come se non la vedesse. Mia madre non mi riconosce, pensò. Si avvicinò cauta e si inchinò. L'una di primavera si alzò. Come stai, figlia? Sto bene, madre. Non mi sono mai sentita così bene. Oh, sei troppo magra. Ti hanno dato da mangiare. Beh, non importa, ho fatto preparare qualcosa dal cuoco. Come poteva mangiare? Madre, io non ho fame, io. L'una di primavera arricciò il naso. Che odore hai addosso? Madre. Cosa dici? Forse senti odore di petardi? Ne abbiamo fatti scoppiare molti per festeggiare. Sua madre non ascoltava, ma si allungò verso di lei e le tolse il berretto che ancora portava. Lisciandole i capelli corti, l'una di primavera mormorò, come se parlasse a se stessa. Anche se sono tagliati così male, ti stanno bene. Sembri. Oh, lascia perdere i miei capelli. Giada Lucente si scostò. Non sai che l'intero paese si sta svegliando? C'è un nuovo spirito unitario, una nuova determinazione. La marcia non è stata che l'inizio. Oggi 3 ministri sono stati destituiti e domani. Figlia! La interruppe l'una di primavera in tono imperioso. Figlia! Non capisci quanto sono stata in pensiero? Giada Lucente scosse la testa, spazientita. Ti ho detto che sto bene. Il mio discorso ha avuto grande successo. Si interruppe un momento, poiché sua madre non reagì, si affrettò a proseguire. Ancora prima di fare quel discorso mi sono fatta valere. Un mercante nel vicolo delle lanterne non voleva saperne di partecipare allo sciopero. Ha detto che gli avrebbe portato sfortuna. Wentan! Persino lui si è arreso quando ho fatto cutù. Sua madre si irrigidì, come se una mano gelida l'avesse schiaffeggiata. Che cosa hai fatto? Lei esitò. Perché gliel'aveva detto? Ah, non era sua intenzione. Ma ora era troppo tardi. Ho detto che ho fatto Cthulhu. Il volto di Luna di Primavera era inespressivo. Nei suoi occhi nessuna luce, nessun sentimento. Il berretto che teneva in mano cadde per terra. Giada Lucente si chinò a raccoglierlo e lo mise sul tavolo. Benché fosse assai più alta, ebbe la sensazione di rimpicciolire fino a diventare minuscola, come l'immagine riflessa negli occhi di sua madre. Il silenzio che era caduto fra di loro la colpì con la violenza di un pugno. Non osava muoversi. E quando finalmente Luna di Primavera parlò, non fu la voce di sua madre quella che udì. Mai più, figlia mia, mai più ti inginocchierai e abbasserai la testa ai piedi di un forestiero. Così facendo tu hai umiliato il nostro clan. Così facendo hai insozzato il nome che gli antenati e le antenate ci hanno tramandato. Non volevo mancare di rispetto. Tu menti! Come osi mentirmi? Giada Lucente non aveva mai visto sua madre perdere il controllo. Anche allora la collera non durò più di un lampo. Con uno sforzo visibile, Luna di Primavera si impose di tornare in sé e quando parlò di nuovo era calma. Troppo calma. Figlia, noi ci inginocchiamo solo davanti ai nostri anziani e alle nostre anziane, per reverenza e rispetto. Non hai forse scritto un saggio sull'errore di inginocchiarsi davanti agli idoli? Ora tu ti inginocchi davanti a semplici mercanti? Certo, qualsiasi dio per coloro che lo adorano ne è più degno. Ma io non mi sono inginocchiata per adorare, madre, ribatté lei. Mi sono inginocchiata per mostrare la mia sincerità. Ti sei inginocchiata per ottenere quel che volevi, sapendo benissimo che fare Cthulhu davanti a un forestiero è un atto di sottomissione. Come osi ostentare la tua mancanza di rispetto per coloro che onoriamo? Che ne è stato del tuo senso di pietà filiale? Se scompare anche quello, cosa resta? Giada Lucente tacque. Cosa resta, figlia? Di nuovo lei rimase in silenzio. Per la terza volta sua madre domandò: Rispondimi, quando la pietà filiale è scomparsa, cosa resta? Un senso di ingiustizia la prese alla gola, soffocandola. Non poteva più tacere. Con convinzione cominciò: Quando la pietà filiale è scomparsa, quel che resta è. Si interruppe prendendo la mira, usando le stesse parole che sua madre aveva usato su una carrozza tanto tempo prima. Quel che resta è una persona di carattere. Luna di Primavera rimase immobile. Il silenzio nella stanza era opprimente, come lo è la notte che precede la battaglia. Infine la madre parlò. Quando la pietà filiale è scomparsa, non può esservi famiglia. Quando non vi è famiglia, non può esservi civiltà. Quando non vi è civiltà, gli uomini e le donne non sono nient'altro che bestie. Se ne stava rigida, eretta. E io che ti ho dato la vita, non avrò una bestia per figlia. Inginocchiati, bambina, inginocchiati! No, gridò dentro di sé Giada Lucente. Non devi farmi una cosa simile. Per un attimo pensò di voltarsi e di correre via. Poi, inaspettatamente, le gambe le mancarono e cadde in ginocchio come un aquilone rotto. Ma mentre si inginocchiava fece un voto. Questo sarebbe stato il suo ultimo atto di ubbidienza, l'ultima volta che si sarebbe comportata come una bambina. Non si sarebbe mai più inginocchiata, né a sua madre, né agli anziani, né alle antenate. Gli sguardi delle due donne si incontrarono. Luna di Primavera appariva stanca, come se non dormisse da giorni. Non importava, vedeva in Giada Lucente una rabbia fredda, resistente come acciaio. La madre si protese verso di lei per aiutarla ad alzarsi. Senza scambiarsi una parola, salirono le scale. Quella notte Giada Lucente fu svegliata da qualcuno che piangeva e si affrettò verso la cameretta di Promessa Costante. Il bambino dormiva. Chiudendo con precauzione la porta, si diresse verso la stanza vicina. Rimase lì a lungo a ricordare. Era una bellissima carrozza, quasi nuova, con sedili di cuoio e un cavallo bianco. Dove mi porti, madre? In una scuola. Per quanto tempo? 6 anni. Quanto tempo, aveva pensato allora, quanto tempo, senza padre, senza madre, come l'orfano 20 d'agosto. Dolcemente sua madre le aveva asciugato le lacrime. Dopo aver bussato leggermente, entrò nella stanza. 34. La proposta. Chi potrebbe immaginare? Chi potrebbe immaginare il carro di un povero pieno di lacrime, l'odio nato in un giorno impiega 1.000 anni per morire? Tien Kien, intorno al 1950. Era il primo giorno della quindicina della pioggia e mancava un mese alla fioritura delle forsizie, ma c'era un alito di primavera nel vento che saliva dall'acqua, mentre già da lucente camminava velocemente verso la barca lungo la banchina di Wusung. Usava come scudi le due ceste vuote che aveva con sé, facendosi strada fra mendicanti e risciò, fra gabbie di polli e maiali che affollavano il molo. Di tanto in tanto, costretta a fermarsi dalla folla brulicante, osservava le mendicanti che battevano ceste appese all'estremità di pali di bambù contro le fiancate di piroscafi stranieri appena arrivati in cerca di monetine. Assicurati con cinghie sul dorso e sul petto, portavano gli affamati figli della Cina. Su un molo dove stava accostando una nave delle Filippine, dei culi si azzuffavano per farsi posto perché ciascuno di loro voleva essere il primo a saltare e aggrapparsi al ponte, ad arrampicarsi a bordo, forse per assicurarsi un lavoro. I passeggeri erano tutti allineati lungo la battaiola e stavano a guardare come se fosse stata una competizione sportiva, facendo il tifo ora per l'uno, ora per l'altro. I giovani, i più agili, facevano agevolmente il salto, ma non molto tempo prima aveva visto un uomo maturo cadere in acqua e affogare. Si era tuffato da una catasta di gabbie, aveva mancato il bersaglio, era scivolato, si era aggrappato all'orlo del ponte, ma le sue mani, indebolite dalla fame, non potevano tenere la presa. Un attimo dopo era scomparso e un altro aveva preso il suo posto. Nessun membro della famiglia sapeva dei viaggi di Giada Lucente sul fiume o delle sue attività che la portavano a Wusung, da quando li aveva sfidati, restando nella prigione improvvisata della scuola. Neppure il giovane prozio era al corrente di tutta la sua attività politica. Non aveva forse cercato di ottenere il suo rilascio prima che i loro obiettivi fossero raggiunti, dicendo: «Sei una ragazza, in fondo!» E più tardi, quando gli scioperi avevano minacciato di intaccare le concessioni e persino gli stranieri avevano imposto la censura, non aveva forse rifiutato di pubblicare il suo articolo sui compradores, dicendo che i mercanti si sarebbero risentiti? Lei aveva acquistato segretamente un ciclostile con denaro ottenuto da 20 d'agosto e lo aveva nascosto nella stanza sul retro del magazzino dove Spirito Risoluto lavorava di giorno come guardiano. Ora loro due e Hu stampavano le tesi dell'Unione degli Studenti, oltre ai suoi saggi e alle traduzioni di Marx fatte da Hu. Ogni 2 giorni lei portava gli opuscoli proibiti a Wusung, consegnandoli a un giovane straniero che l'aspettava alla bancarella del pesce del mercato locale. Lui, a sua volta, li passava ad altri, e quelli ad altri ancora finché le copie arrivavano alle scuole di tutta la costa. Oggi, quando era arrivata, non aveva trovato lo studente al solito posto e così aveva tardato. Ora, salendo sulla barca, chiese di partire subito. Doveva arrivare puntuale alla riunione degli studenti. Il vecchio barcaiolo sordo, che la traghettava sempre avanti e indietro, evidentemente non la sentì perché si limitò a inchinarsi dicendo: «È andata bene la vostra visita, giovane padrona? Un peccato che ci sia troppa gente, un peccato!» Spazientita, lei ripeté l'ordine più forte questa volta e passò oltre per mettersi a sedere prima che lui potesse parlare di nuovo. Il vecchio diceva sempre le stesse cose. Ogni volta che passavano davanti alle fabbriche giapponesi, sputava in acqua e imprecava: «Aia! Soltanto un branco di bufali che scorreggiano fumo e fuliggine!» Ogni volta che passavano, accanto ai rifiuti galleggianti li raccoglieva dicendo: «Aia! Nient'altro che bucce di banana per la mia cena!» Lei non aveva molto tempo per le sue chiacchiere inutili. I suoi pensieri erano rivolti alla lista di cose che ancora doveva fare: vedere subito Miss Clayton per trovare un dottore che curasse sorella Sue, la quale, temendo che un bambino le costasse il lavoro, si era infilata una bacchetta nel grembo. promuovere una campagna di reclutamento di altri studenti, lavoratori che insegnassero a leggere alle donne delle fabbriche di seta, aggiornare la lista dei mercati non patriottici e pubblicarla. Spirito risoluto e i suoi amici non potevano picchettare tutte le botteghe contemporaneamente. Pubblicare la lista poteva servire a boicottare quelli che continuavano a trafficare in merci giapponesi. Padrona, tenetevi forte! Urlò il vecchio barcaiolo. Sta avvicinandosi un piroscafo straniero. Lei annuì e si aggrappò mentre la piccola imbarcazione oscillava violentemente nella scia di quella grossa. Il risentimento le ribollì dentro. Non sarebbe mai cambiato niente. Non aveva fatto altro che sputare in acqua come il vecchio barcaiolo. Forse il giovane prozio aveva ragione. Le tue dimostrazioni da scolaretta non servono a niente, protestava. Niente conta finché vi sono trattati iniqui, finché i signori della guerra imperversano come banditi, combattendosi fra di loro come fanno gli stranieri per mettere le mani su un'altra fetta di Cina. Se costringiamo i cinesi ad abbandonare le attività commerciali, subentreranno i giapponesi. Bisogna tener conto delle priorità, pronipote, un passo alla volta. È da più tempo di te che mi occupo di rivoluzioni. Ma proprio su quel punto Hula pensava diversamente. Quale rivoluzione? Sun è un clown. Che cosa hanno cambiato le sue continue rivoluzioni per quelli che non avevano nemmeno una ciotola di riso? Mettiti d'accordo coi mercanti e non sarai migliore dei signori della guerra. Padrona! Chiamò il barcaiolo indicando la vecchia fortificazione sulla spiaggia. Padrona! Lei sospirò. Sì, la vedo. Voi non ci crederete, padrona. Ma un tempo indossavo una veste e camminavo sui bastioni. Lei annuì distrattamente e ritornò ai propri pensieri. Soltanto spirito risoluto non minimizzava mai i suoi sforzi, né quello che lei suggeriva era mai troppo difficile per lui. Se aveva bisogno di 20 uomini, lui glieli trovava. Se aveva bisogno di informazioni, lui gliele procurava. Benché fosse grande e grosso, gli altri sembravano protettivi nei suoi confronti. Si curano di lui come lui si cura di loro, pensò, e improvvisamente sorrise. La sua prima impressione non si era rivelata sbagliata. Insieme il contadino e la nipote del Hanlin trovavano l'ispirazione. Nessuno poteva negare il calore di lui e il fervore di lei. Il sole era basso a occidente quando la barca raggiunse Shanghai. Già da lucente scese a terra ancor prima che fossero assicurati gli ormeggi e si fece strada rapidamente tra la folla sul Bund fino all'incrocio con la Nanking Road. Improvvisamente si udirono uno stridio di freni e un urlo. Si girò a guardare. I passanti correvano verso la scena dell'incidente. Nonostante l'ora tarda, qualcosa attirò anche lei. Mentre lei si faceva strada fra la folla, arrivarono diversi poliziotti Sikh per respingere i curiosi. Una coupé nera aveva sbandato ed era finita sul marciapiede. Accanto alla macchina, uno straniero con grossi baffi si asciugava la fronte. Uno dei Sikh, un sergente, lo salutò. Ho visto tutto, signore. Quel pazzo vi è proprio capitato davanti. Parlava in inglese. Non l'avevo visto, gridava il guidatore. Non l'avevo visto. Un americano, pensò lei. A fatica riuscì ad arrivare fin dall'altro lato della macchina. Il vecchio barcaiolo giaceva insanguinato sul selciato. Le sue due ceste intatte erano accanto a lui. I due uomini si avvicinarono al cadavere. Chi era? Chiese il forestiero, voltando rapidamente il capo, pallidissimo, e si appoggiò alla macchina. Oh, nessuno, rispose il Sikh, soltanto un coolie. Povero bastardo giallo. Lo straniero scosse il capo. Cosa devo fare? Oh, ci penseremo noi. Da come era ridotto, gli ha fatto un favore. L'altro si frugò in tasca, prese il portafoglio, tirò fuori una manciata di banconote. Forse servirà. Tenga il suo denaro, Sahib. Incidenti come questo capitano ogni giorno. Ora è meglio che se ne vada. Fece un cenno a uno dei suoi subalterni. Accompagna il signore, fa che arrivi sano e salvo a destinazione. Coi suoi uomini, il Sikh costrinse la gente a ritirarsi per lasciar passare la macchina. Per un po' i presenti rimasero a fissarla mentre si allontanava. Poi cominciarono lentamente a disperdersi. Le ceste! Schizzò verso di esse. Altri fecero altrettanto. Riuscì a strapparne una a un monello. È mia! Gridò lei, senza sapere perché. È mia! Il bambino gliela lasciò e scappò via, scomparendo in un attimo. L'altra cesta non c'era più. L'altra cesta senza valore per lei, ma non per il barcaiolo. Lui aveva dato la sua vita per essa, per lei. Giada Lucente si teneva stretta la cesta, come se così facendo potesse evitare che lui fosse morto per nulla. Non gliel'aveva mai detto, in nessuno dei loro viaggi, che lo immaginava come doveva essere stato un tempo. Un ufficiale della Guardia Imperiale di sorveglianza ai cancelli del Regno di Mezzo, che indossava una lunga veste e portava penne colorate nella sua coda folta. Oppure era stato soltanto il sogno di quell'uomo. Improvvisamente si sentì mancare e si diresse verso il lampione all'angolo. Mentre se ne stava appoggiata contro quello, vide avvicinarsi il carro dei morti. Quando se ne fu andato, degli uomini lavarono via il sangue con l'acqua. Si voltò e proseguì su per la Nanking Road, vagando senza meta. Cercava di immaginarsi il barcaiolo in cielo e lo vide invece sul carro dei morti, ancora sanguinante. Non credeva a Gesù e adorava gli idoli. Non avrebbe mai ereditato la terra a quel brav'uomo che le era corso dietro per restituirle due ceste di paglia. Ce n'erano milioni come lui, troppo poveri per comperarsi una camicia, troppo deboli per lottare. Perché, signore? Perché? Si domandava, ma non riceveva risposta. Era buio quando si ritrovò alla porta della missione. Non c'era più andata da quando erano cominciate le manifestazioni. Fece per correre dentro, ma la guardia la fermò. Ehi, che cosa fa? Sono venuta a trovare Miss Clayton. Non c'è, rispose l'altro bruscamente. È partita per l'interno. Ma io devo vederla. La prossima settimana. Ritorni la prossima settimana. Lei si voltò e percorse i pochi passi che la separavano dalla chiesa. Le candele sull'altare erano accese. Sedette nel banco di prima fila a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia benedetto il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Si interruppe e ricominciò. Padre nostro. Le parole la soffocavano. Dio non conosceva il Culi, povero vecchio bastardo giallo, soltanto un cinese. La porta si aprì e si richiuse, lasciando entrare una raffica di fredda aria notturna. Rabbrividì ascoltando i passi che si avvicinavano e poi si fermavano sull'altro lato della navata. Padre nostro che sei nei cieli, mormorò un uomo. Voltandosi lei lo guardò. Rimetti a noi i nostri debiti, intonò lui. E sicuramente sarebbe stato accontentato, pensò lei. Dio avrebbe perdonato questo cristiano, questo straniero. Giada Lucente si alzò e lasciò l'uomo che pregava. Era passata a mezzanotte quando si ritrovò davanti al numero 42 della Rue Flaubert. La luce nella stanza di sua madre era accesa. Una macchina le si fermò accanto. Giada Lucente, dove sei stata? 20 d'agosto teneva la portiera aperta. Sali, sali! Lei ubbidì. Che cosa c'è? Le mise un braccio intorno alle spalle. Lei non oppose resistenza. Ho detto a tua madre che eri con me. Ti aspettava a casa per cena e ha telefonato al mio ufficio. Da allora sono rimasto qui ad aspettarti. E finalmente le lacrime sgorgarono. Cos'è successo? Perché piangi? Lei non parlava. Come poteva spiegare che piangeva per il vecchio barcaiolo? Che piangeva per la figlia di sua madre e l'allieva di Miss Clayton, e ora che era fra le sue braccia, per la ragazza di quella notte sul dragone. Lui sussurrò più volte il suo nome, tenendola stretta finché non smise di piangere. Ma poiché non si muoveva né parlava ancora, la baciò intensamente, quasi temendo che svanisse, quasi che soltanto la sua passione potesse trattenerla. La conosceva bene ormai. Era vero, se ne sarebbe andata. Forse non quest'anno, forse nemmeno quello dopo, ma se ne sarebbe andata. Per un attimo lei gli si aggrappò e si abbandonò al desiderio a lungo combattuto. Ma quando si staccarono, vide nei suoi occhi una tale felicità, una tale speranza che tornò immediatamente in sé. Gli sfiorò con dolcezza le labbra e scosse la testa, mormorando: basta così, basta così. Poi si ritrasse. E scese dalla macchina. Lui la chiamò, ma lei si stava già allontanando. E rimase per un attimo immobile nella luce della luna, a metà strada fra la casa e l'auto, guardando la finestra illuminata come per dire: la mamma mi aspetta. Poi si mise a correre. Lui se ne andò soltanto quando lei fu entrata. Chiudendo silenziosamente la porta dietro di sé, Giada Lucente pensò di nuovo che se ne sarebbe andata. Non doveva lasciar loro nessuna speranza. Non doveva continuare a spezzar loro il cuore. Meglio era tagliare di netto una volta sola. Passarono dei giorni prima che si ricordasse della cesta. L'aveva lasciata nella macchina di 20 d'agosto. Non aveva senso richiederla.